America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Altro attacco a New York, devo dire per fortuna un attacco di portata modesta. Ulla Akhayed, un giovane di 27 anni del Bangladesh, che aveva un dispositivo molto rudimentale, come ha detto lo stesso sindaco della città Bill de Blasio, per fortuna ci sono stati soltanto pochi feriti. Diventa a questo punto un episodio di cronaca, anche se un atto di terrorismo. Le conseguenze sono state soltanto nelle prime ore della mattinata, con la città relativamente paralizzata, ma poi questa è una città che resiste, una città che guarda in avanti, e il traffico era assolutamente normale appena poche ore dopo. Altra notizia importante, oggi, ve lo racconto ormai da qualche giorno, ci saranno le elezioni in Alabama per il seggio senatoriale. C'è Moore che ha molestato una ragazzina di 14 anni contro il democratico Doug Jones. In questo momento il democratico sembra in avanti, però è alla fine della giornata che avremo i risultati e ve li racconterò domani. Nel frattempo ci sono delle curiosità. Vi parlo spesso delle fondazioni, dell'importanza del non profit in America, di come noi stessi in Italia dovremmo occuparci del non profit, e forse non lo facciamo abbastanza. E dunque ieri sono venuto, pensate, a un evento straordinario. Sentite, perché cosa è successo? Che Andrea Bocelli ha dato lo scampanellio di avvio della giornata delle trattative al Nasdaq. E dunque sono venuto al Nasdaq per vedere cosa succedeva. Sentite. Ecco, come mai, direte voi, un cantante d'opera viene al Nasdaq per dare lo scampanellio di avvio? Beh, perché Andrea Bocelli, ed ecco il collegamento con la fondazione, ha anche una sua fondazione molto importante, l'Andrea Bocelli Foundation. Devo dire, si dedica moltissimo a queste sue attività di filantropia, cerca di finanziare delle scuole a Haiti. Ci sono 4.500 bambini che hanno potuto andare a scuola, hanno potuto essere aiutati grazie a questa sua fondazione. Ci sono due missioni fondamentalmente: una Break the Barrier, proprio per aiutare i bambini ad andare avanti, e l'altra Challenge, cioè per la ricerca, per fare dei progressi per la ricerca. E qui ho con me ai microfoni di America 24, direttamente da Times Square, Andrea Bocelli. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Ecco Andrea, beh, intanto scusa, ma beh, raccontaci cos'è stato schiacciare il bottoncino, o meglio questa specie di palmare con cui hai dato la via alle trattative. Dopo che tu hai schiacciato, miliardi hanno cominciato a circolare. Ma è una cosa curiosa, perché naturalmente ascoltare le notizie del Nasdaq per radio tutti i giorni da casa, poi trovarsi lì personalmente a compiere quell'atto è una cosa curiosa. Però al di là della curiosità, c'era la grande opportunità di presentare a un mondo intero la fondazione che porta il mio nome, raccontare un po' quello che fa nel mondo, e è stato effettivamente un momento molto importante. Ecco, per darvi un'idea della visibilità di questo evento, beh, il Nasdaq è quella specie di torre rotonda che è su Times Square, quindi una delle zone più affollate e popolate di New York, e c'è una proiezione video di straordinaria chiarezza, che è alta probabilmente 10-15 piani, in cui si vedono queste immagini enormi che trionfano, che dominano Times Square. E a un certo punto sono arrivate le immagini di Bocelli che dava l'avvio, ed era con vari personaggi, inclusa sua moglie Veronica, inclusi amici, a dare questo avvio. Hai chiacchierato anche col presidente del Nasdaq, cosa ti ha detto? In realtà io sono stato invitato a dire due parole, e due parole sono state, perché come suggerisce un passo della Bohème di Puccini, la brevità gran pregio. Poi l'inglese non è che mi sia così familiare, quindi meglio dire poche cose essenziali e essere brevi. Allora, diciamo delle cose brevi e essenziali sulla tua fondazione intanto. Qual è la missione oggi? La missione oggi è quella di essere sempre dalla parte degli ultimi. La fondazione ha operato da diversi anni soprattutto in Haiti. La fondazione è riuscita a creare 5 scuole dove 2.500 bambini vengono educati, ma soprattutto hanno anche l'opportunità di essere nutriti, di vivere una vita diversa da quella che sarebbero destinati a vivere. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è il tentativo di creare un device, un'apparecchiatura che rimuova dalle radici la difficoltà oggettiva che hanno tutti i non vedenti, che è quella di spostarsi autonomamente all'interno di una città, o comunque ci sono tante persone sole che la mattina devono affrontare un percorso per andare a lavorare, per andare a fare la spesa, insomma le cose di tutti i giorni. Beh, questa è una cosa straordinaria, ti devo dire, sul piano personale apprezzo molto, anche perché mia madre è cieca e dunque il fatto che ci siano delle ricerche che possano aiutare le persone a potersi muovere con maggiore facilità, ovviamente è straordinario. Ecco, il secondo messaggio che ti chiederei di darci è com'è diverso il modo di fare filantropia all'estero, in America soprattutto, in Italia? Come mai noi siamo un po' più indietro? Siamo più indietro perché noi siamo cresciuti nell'idea che lo Stato dovesse pensare a tutto. In realtà questo non accade, non è possibile, e io credo che anche la condivisione delle cose debba passare attraverso l'iniziativa privata e il cuore dei singoli. Ecco, ieri sera c'è stato un evento alla Columbus Citizen Foundation dove hai ricevuto un premio, nei prossimi giorni farà il concerto al Madison Square Garden, quindi ci sarà un pienone. E allora io devo dirti, siamo a New York, abbiamo visto la neve per strada, c'è un White Christmas in arrivo. Siccome io così ho questa debolezza che ogni tanto voglio fare qualche piccolo duetto, ti chiedo se possiamo fare insieme White Christmas, visto che è un bianco un duetto, Natale. Un duetto con Mario Platero, fantastico. Dai, sei okay, pronto? Via. 1, 2, 3, 4. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Un grande regalo ai nostri ascoltatori. Auguri, Andrea, per i concerti dei prossimi giorni. Grazie. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.